Devo intanto ringraziare Giacomo per avermi invitato questa sera a presentare alcune idee sul tema che vedete indicato sullo schermo. Però, insieme al ringraziamento, devo dichiarare pubblicamente che le cose a cui Giacomo ha accennato riguardanti le mie attività riflettono una varietà di vite intellettuali che io conduco il più possibile separatamente l'una dall'altra. Infatti, ho l'abitudine di presentarmi in pubblico come linguista, non ho l'abitudine di presentarmi in pubblico come saggista, tra virgolette, filosofico, una cosa che io tengo ben nascosta per prudenza. Però Giacomo, essendo mio amico e tradito forse da questa amicizia antica e affettuosa, mi ha istigato a presentarmi qui, quindi io lo faccio con la consapevolezza di essere abbastanza un outsider e quindi con l'invito a essere nei miei confronti clemente, perché le mie argomentazioni saranno elementari e per molti di voi, suppongo, anche abbastanza scontate. Quello di cui vorrei parlare è il collegamento fra i temi che vedete qui indicati dal titolo. Il collegamento nella mia mente si è creato perché scrivendo questi due libri in successione, uno uscito nel 2000, l'altro nel 2008, mi sono accorto, non me ne sono reso conto dall'inizio, non è stato il risultato di un progetto, mi sono reso conto che tanto nell'uno quanto nell'altro appariva una insistente attenzione nei confronti dei problemi del vedere. Dirò fra un istante che il termine vedere mi sembra troppo povero rispetto alla varietà fenomenologica di ciò che noi facciamo con l'occhio, però in mancanza di termini migliori uso questo. E allora, mettendo insieme l'una e l'altra delle fasi, diciamo, della mia attenzione nei confronti del vedere, ho organizzato una riflessione, la quale a sua volta si presenta in due fasi. Sono due fasi al tempo stesso concettuali e storiche. La prima fase, concettuale e storica, vedremo fra un istante che questa fase si può tranquillamente sistemare dal punto di vista cronologico nell'antichità, nella filosofia antica. Nella prima fase le etichette che la caratterizzano sono castità della vista in quanto via di percezione e di conoscenza e poi con un vasto intervallo cronologico ascesa, formazione di una specifica modalità di visione che nel primo dei libri che ho menzionato prima, e cioè la terza fase, ho chiamato visione alfabetica. Siccome è una dizione abbastanza atipica, andrebbe messa tra virgolette. Immaginate che queste virgolette ci siano. Castità della vista. Nella tradizione filosofica, e qui comincio a muovermi in un terreno nel quale non sono un professionista, ma un dilettante ancorché evoluto, la vista è presentata sistematicamente come la regina dei sensi e la via regia per la conoscenza. Questo perché nella filosofia antica è molto frequente la preoccupazione verso il disegno di una sorta di ordine dei sensi, una gerarchia dei sensi dove si stabilisce qual è il primario, quali sono i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, quali semmai siano i secondari, quali i loro vantaggi e i loro svantaggi e così via. Nella pagina 1 della metafisica, chissà perché non vuole più venire fuori. L'ho cacciata prima e non si vuole più ripresentare. Pagina 1 della Metafisica, Aristotele dice: amano più di tutte la sensazione della vista le persone. Infatti, non solo ai fini dell'azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il vedere in un certo senso a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose. Eraclito, in un frammento, dice: gli occhi sono testimoni più sicuri degli orecchi, ed è, che io sappia, la attestazione più antica della opposizione, di cui poi si ricorderà il diritto processuale sin dalle fasi più antiche, tra testimone oculare, testimone di buona qualità, e testimone uditivo, testimone di qualità relativamente inferiore. Platone ci mette del suo. La vista è il più acuto dei sensi permessi al nostro corpo, e di più, è fra gli organi di senso quello che più nell'aspetto ricorda il sole. Quindi abbiamo una concorde esaltazione del vedere come via primaria verso il conoscere, in Eraclito verso il conoscere giudiziario, testimoniale, di buona qualità. Abbiamo in Platone una sorta di spiegazione metafisico-iniziatica, in base a cui, siccome l'occhio somiglia al sole, questo ne garantisce il primato. Facendo un gran salto, anche Agostino nelle Confessioni si domanda quali sono i sensi che portano verso il peccato e quali quelli che ne tengono lontano, e con una testimonianza piuttosto insolita nella storia di questa, di questa questione, dichiara che l'udito è un senso esposto al rischio di peccato. Quando succede che il canto mi tocca più del testo cantato, cioè la musica più delle parole, confesso che il mio peccato è degno di pena e preferirei allora non sentir cantare. Non si trovano frequentemente indicazioni di questo tipo che caratterizzino l'udito come senso peccaminoso. Vediamo cosa dice la vista. Anche qui il nostro Agostino vede del pericolo, perché la vista, benché sia la prima, quindi la tradizione antica è in questo pienamente rispettata, è esposta al rischio, diciamo così, non dice così Agostino, ma è questo probabilmente che pensa, alla bellezza delle forme. Quindi la bellezza percettiva, fisica, sensuale delle forme si percepisce attraverso la vista e attraverso l'udito, anche se Agostino osserva in maniera molto interessante che la vista, data la sua importanza, costituisce una metafora generale anche degli altri sensi. Ancora oggi lui probabilmente pensava al vedere greco, no? Il oida, ho visto, dunque so, quindi il sapere come derivato primario della vista, ma la metafora del vedere come capire, come rendersi conto, eccetera, è molto frequente nelle lingue ed è adoperata anche nelle lingue moderne europee. Questa disputa, questa discussione sull'ordine dei sensi, che a quanto io ho potuto vedere in esplorazioni diverse non è molto presente all'attenzione dei filosofi di professione, costituisce, come tanti motivi, un filo che percorre la storia della riflessione sulla conoscenza e sulla percezione. Se facciamo un gran salto, un altro esempio, un altro passaggio importante lo troviamo in epoca illuministica tra Francia e Germania, dove per esempio con Condillac nel Traité de Système fa queste osservazioni a proposito dell'udito, del quale sottolinea che una proprietà dell'udito è quella di sentire distintamente più suoni insieme. Chi di voi ha familiarità con quest'epoca della storia e della filosofia sa che Herder dedica nel suo saggio, nel suo meraviglioso saggio, meraviglioso non mi aggiunto perché lo considero ancora adesso una straordinaria analisi del rapporto fra percezione, linguaggio e arte, un'analisi comparativa dei sensi, che, creando poi una gerarchia e un ordinamento dei sensi stessi. Qui osserva, a proposito dell'udito, che è diventato un senso mediano rispetto al linguaggio, vera e propria porta dell'anima ed elemento di unione fra i vari sensi. Herder ha anche riflessioni importanti a proposito del confronto fra udito e vista, che sono poi i due sensi principalmente in lotta in questo tipo di analisi, osservando che a differenza dell'udito, senso fondamentale del linguaggio, quindi a lui per lui particolarmente rilevante, la vista è così lucida e abbagliante e offre una tale quantità di tratti che l'anima soccombe sotto la loro varietà, quindi la varietà di informazioni simultanee, il peculiare della vista e anche il suo difetto fondamentale, e forse riesce a malapena a isolarne uno, ma tanto debole che ogni riconoscimento per suo tramite diventa difficile. Quindi qui l'alternativa è tra l'udito che costringe gli stimoli a presentarsi sia pure limitatamente in successione e la vista che permette a stimoli simultanei di entrare dalla porta. Esattamente una posizione contraria a quella dell'antico, perché la vista soccombe sotto la varietà degli stimoli e quindi un senso debole che non riesce a isolare la varietà delle informazioni percettive che riceve, al contrario invece dell'udito. Questa è, con una inarcatura che ha di mezzo più di 10 secoli, un pochino la posizione classica a proposito di questi temi. Poi Lessing, il passaggio è scontato nell'epoca di Herder, attribuirà le arti, il peculiare delle arti, al fatto che ciascuna arte conta su un senso particolare. Quindi la pittura è l'arte che conta sul vedere ed è quindi l'arte della simultaneità, mentre il linguaggio e la poesia, che contano sull'udito, sono arti caratterizzate dalla successione. Questa disputa è poi stata sviluppata in epoca recente, in epoca moderna e anche recente, con la famosa, ben nota discussione sorta in ambito estetico sullo specifico delle varie arti. Queste sono altre considerazioni di Herder, dove è interessante quello che dice a proposito della vista: la vista presenta tutto davanti a noi di colpo, sgomentando l'apprendista con il quadro smisurato della successione spaziale. Notate che riguardo, al contrario, ci usa la maestra di lingua servendosi dell'udito. Essa, la maestra di lingua, ci sgrana e l'animo solo un suono per volta, dà senza mai stancarsi, dà e ha sempre più da dare. Quindi è una posizione rovesciata rispetto alla precedente, che viene ulteriormente elaborata in questo passaggio, che è importante perché contrappone gli oggetti che esistono l'uno accanto all'altro, tipici della poesia che conta sull'udito, contro gli oggetti che seguono uno dopo l'altro, che sono tipici della pittura e delle arti della raffigurazione, che contano per l'appunto sulla vista. Punto d'arrivo, così come io lo interpreto naturalmente, questa non è una qualificazione storiografica, ma è una mia libera interpretazione da outsider, posizione che in questo momento mi fa ovviamente molto comodo mantenere. Noi abbiamo tre organizzazioni sensoriali a cui, ed è questo il passaggio che mi sto attribuendo, il passaggio un po' audace che mi sto attribuendo, a cui possiamo collegare tre tipi di intelligenza: l'ascolto, che favorisce un'intelligenza lineare, secondo le idee di Herder e di Lessing; la visione, che secondo le idee di Herder e Lessing è essenzialmente il senso che conta sulla simultaneità degli stimoli, e in quanto conta sulla simultaneità degli stimoli, la chiamerò non alfabetica, per un motivo che si capirà fra un istante. E primo portato del moderno, o per meglio dire primo portato del primo moderno, visione alfabetica, cioè la visione applicata non a immagini ed eventi, ma applicata alla riga di scrittura, la quale deve avere a un certo punto un posto in questa narrazione filosofica, perché con la nascita della scrittura e successivamente con la nascita della stampa e quindi la libera accessibilità di vaste masse di persone alla scrittura alfabetica, si stimola una nuova forma di visione, la quale in un certo senso nega la sua vocazione originaria, così come descritta da Herder Lessing, perché rinuncia alla simultaneità degli stimoli e adotta una procedura che è somigliante a quella dell'ascolto. Noi nel leggere seguiamo una linea. Possiamo naturalmente debordare verso l'alto, verso il basso, verso il limite della pagina, sulla pagina accanto, ma la nostra pista è costituita da una linea. In questa, nell'acquisizione di questa terza modalità, terza via di senso e terzo tipo di intelligenza, hanno un ruolo fondamentale l'invenzione della scrittura, della lettura e più recentemente della stampa. Quando avevo pensato, elaborato e scritto queste cose, sono usciti due libri che mi hanno reso consapevole del fatto che queste non sono quelle che ho appena esposto, non sono elucubrazioni di un turista filosofico, ma possono trovare un fondamento empirico. Il libro Proust e il calamaro, uscito recentemente anche in italiano, di Marianne Wolfe, e più ancora quest'altro importante di Stanislas de Hena, I neuroni e la lettura, uscito anche lui recentissimamente in italiano, sono due libri che mostrano, dal punto di vista dei due neuroscienziati, più rigoroso il secondo, più, diciamo, spiritosa e più all'americana la prima, mostrano una cosa, esibiscono un argomento che viene a confortare ciò che ho appena dichiarato, e cioè che nella evoluzione della specie e nella ontogenesi del singolo individuo, il momento in cui si incontra la lettura, cioè si impara a forzare l'occhio, a concentrarsi sulla riga di caratteri, abbandonando quindi la sua capacità di cogliere simultaneamente una vasta varietà di informazioni visive, è un momento in cui accade qualche cosa nel cervello. Questi due libri, con le ricerche singole che stanno alle loro spalle, mostrano infatti con abbondanza di dati che intanto la lettura attiva aree cerebrali che sono diverse da quelle attivate dal linguaggio verbale. E in secondo luogo, cosa che con il sapere generale di oggi si può anche prevedere, ma fa sempre impressione vederlo documentato empiricamente, si creano nel lettore, nella persona capace di leggere, delle connessioni cerebrali che gli rimangono o le rimangono per tutta la vita e che quindi costituiscono un circuito pronto per agire successivamente. La conclusione è la Wolf, che come ho detto è un'autrice un pochino meno rigorosa di Dehn, e che imparare a leggere, quindi la visione alfabetica, produce conseguenze non soltanto cognitive ma neurali e, come lei dice, genera un maggior numero di pensieri, cioè il pensiero è sviluppato dal fatto di avere la capacità di leggere. Queste idee, che come vedete in questa schermata, in questa scheda, sono in un certo senso una sistemazione, sia pure con interpretazione aggiunta, di una tradizione filosofica plurisecolare, si sono poi completate più di recente con talune prese di posizione che io chiamerei neoclassiche. Neoclassiche perché riprendono il motivo platonico della purezza della vista nei confronti degli altri sensi. Una prima formulazione di questa opinione neoclassica la troviamo nella Vita della Mente, The Life of the Mind, di Hannah Arendt, che dedica un lungo capitolo a questo tema, del quale capitolo io riproduco qui soltanto due righe che esprimono poi il suo punto di arrivo. Nessun altro senso che non sia la vista, dice la Arendt, stabilisce una simile distanza di sicurezza fra soggetto e oggetto. Quindi la vista è, come spiegherà un amico e allievo della Arendt, Hans Jonas, che scrive, o Jonas, secondo come vogliate leggerlo. Qualche decennio dopo, un saggio importante che si chiama, come vedete dal titolo sotto, The Nobility of Sight, la nobiltà del vedere. La vista stabilisce una distanza di sicurezza che procura, dice Jonas, il concetto di obiettività, in quanto mostra la cosa come è in se stessa, distinta dalla cosa in quanto mi turba e mi coinvolge, e da tale distinzione scaturisce l'idea di teoria e di verità teoretica. Quindi Jonas fa un salto piuttosto acrobatico, perché asserisce che la vista è l'indicatore massimo di obiettività, di separazione fra soggetto e oggetto, e finalmente il fondamento epistemologico della teoria. Il punto successivo spiega questo passaggio. Nel vedere, dice Jonas, non ho altro da fare che guardare, e l'oggetto non è influenzato da ciò, la distanza di sicurezza di cui diceva Hannah Arendt. E fino a che c'è luce, l'oggetto non deve far altro che esserci per essere visibile, e io non sono influenzato da ciò. Quindi la vista è il punto massimo di separazione fra soggetto e oggetto. L'oggetto rimane imperturbato, il soggetto rimane imperturbato. Opinioni neoclassiche, perché se riandate con la mente un istante a quello che dichiaravano agli inizi di questo racconto Platone e successivamente Aristotele, avete delle formulazioni tutto sommato somiglianti. Qui comincia la seconda fase. Questo è ciò che si è pensato fino a pochi decenni fa, e cioè il saggio di Jonas del 1966, quindi dei suoi ultimi anni di vita, diciamo la fine del premoderno da un punto di vista cronologico. A un certo punto accade qualcosa, bisogna dichiarare aperta una seconda fase in cima alla quale io metterei, ma anche questa è una interpretazione molto soggettiva, un po', se mi permettete l'analogia, alla Walter Benjamin, metterei la nascita del cinema e di altre forme di vedere, di cose da vedere, per meglio dire, separate dagli oggetti che le rappresentano. Cioè, noi al teatro vediamo attori che sono effettivamente lì, mentre invece al cinema vediamo attori, vediamo persone, vediamo esseri che si muovono, agiscono, portati da motivazioni, da intenzioni e da scopi, ma che non sono veramente lì. Quindi un nuovo modo di vedere. Al contempo e più recentemente, un altro dato di fatto innegabile è che il moderno ha comportato la nascita di una fitta varietà di fenomeni e di oggetti tecnologici, strumenti, usi e costumi, quindi è cambiata l'etologia e l'ecologia del vedere, sono cambiate le cose da vedere, per esempio gli effetti speciali impossibili fino a 30 anni fa danno un ulteriore allargano ulteriormente la gamma delle cose da vedere, mostrando non soltanto cose che non sono effettivamente lì, ma cose che non sono effettivamente da nessuna parte. Quindi le modalità del vedere sono cambiate, espandendosi insieme con le cose che si possono vedere. Se vogliamo trovare un emblema di questa situazione, io userei questo. Nel Terzo Uomo, il famoso film di Carol Reed con Orson Welles, voi ricordate forse, Orson Welles è un delinquente che ha messo in circolazione nella Vienna semidistrutta dalla guerra, il film è del 49, quindi le riprese sono tutte riprese di cose reali, una enorme partita di vaccini avariati, i quali invece che salvare le persone a cui vengono somministrati, le uccidono. Il suo amico scopre questo fatto, Orson lo porta in cima alla ruota del Prater, gli indica in basso i piccoli gruppi di persone che girano per il prater e gli dice: guarda laggiù, sentiresti pietà? Ebbene, ho sbagliato qualcosa. Mi sono sciupato tutto il pathos. Lo so, infatti ci ho lavorato tanto. Volevo togliere il terzo puntino, ecco, questa. Sentiresti pietà se uno di quei puntini si fermasse per sempre? Perché l'amico gli aveva detto: quanti di quelli stanno per morire per i tuoi vaccini? Sentiresti pietà se uno di quei puntini si fermasse per sempre? Se io ti offrissi 20.000 sterline per ogni puntino fermato, mi risponderesti di tenermi il mio denaro o faresti il calcolo mentale di quanti puntini potresti fermare? Perché dice questo il cinico Orson Welles? Dice questo perché nella stessa posizione che Hans Blumenberg ha descritto in quel bellissimo librettino che si chiama Naufragio con spettatore, dove, riprendendo un passaggio di Goethe, Blumenberg dice: è bello assistere al naufragio stando lontano, perché noi non possiamo aiutare nessuno di quelli che muoiono, e al tempo stesso assistiamo a un immenso spettacolo di potenza. Cioè, l'oggetto della visione è talmente distante dal soggetto della visione che noi possiamo, anzi, siamo obbligati a ignorare che cosa quelle persone stanno effettivamente sentendo. L'allontanarsi dell'oggetto visto dal soggetto vedente garantisce la distanza di sicurezza di cui parlava Hannah Arendt. Quindi ai naufragi possiamo assistere come spettatori non soltanto con assoluta tranquillità, ma anche con qualche soddisfazione estetica. Il vedere a distanza garantisce la distanza di sicurezza. Se vogliamo un'altra riprova del fatto che la visione ha cambiato status e natura, per esempio con la nascita del cinema, possiamo trovare qualche passaggio che a me sembra piuttosto sorprendente in quel libro, peraltro non particolarmente riuscito, ma pieno di intuizioni assolutamente geniali, che è Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino. In questo libro c'è il passaggio che voi leggete qui, che si riferisce a un'altra forma di allontanamento dell'oggetto visto rispetto al soggetto che vede. Qua non sono i naufraghi quelli che noi stiamo vedendo, di cui stiamo vedendo il dibattersi, ma sono i caratteri scritti. Sono abituato così bene a non leggere che non leggo neanche quello che mi capita sotto gli occhi per caso. Qui il focus non è sul leggere, sul concentrarsi per leggere, ma è sul concentrarsi per non leggere. Non è facile, infatti, lui dice. Ci insegnano a leggere da bambini e per tutta la vita si resta schiavi di tutta la roba scritta che ci buttano sotto gli occhi. Forse ho fatto un certo sforzo anch'io, in primi tempi, per imparare a non leggere, ma adesso mi viene proprio naturale. Il segreto è non rifiutarsi di guardare le parole scritte, anzi, bisogna guardarle intensamente fino a che scompaiono. Io avrei detto non scompaiono, ma questo non importa. Il fenomeno è somigliante a quello precedente, cioè come l'essere umano agente visto da lontano diventa un puntino che noi possiamo divertirci a contare per capire quanto possiamo guadagnare raccogliendone molti, così in questo caso la visione alfabetica è, diciamo, dissolta nella sua intrinsechezza. Che c'è, Giacomo? Sì, vabbè. Vabbè, può darsi che sia il suo editor, come si dice adesso, deve aver fatto. Rispetto alla varietà dei fenomeni che sto segnalando e che segnalerò ancora, il vocabolario è inerte e quindi noi chiamiamo con le stesse parole delle cose, delle entità, dei processi che sono profondamente diversi. Notate la seguente lista assolutamente banale. La persona che vede, qua mi è scomparsa una riga, però. No. Ecco. La persona che vede, non abbiamo un nome per indicarla. Non abbiamo affatto un nome per indicarla. Se la chiamiamo veggente, diciamo una cosa diversa. Se la chiamiamo vedente, diciamo una cosa diversa da veggente. Visore è un oggetto, guardante è impossibile, osservatore è un'altra cosa. È molto curioso, un senso di cui è dichiarata la centralità in una tradizione così lunga non ha un termine che indichi la persona che in quel momento lo sta esercitando. La stessa cosa vale per l'organo attraverso cui la vista si esercita. Lo chiamiamo vista, però vista indica anche altre cose. Visione e vista non sono proprio la stessa cosa. L'atto di vedere, anche lui, non ha un nome. Possiamo chiamarlo visione, ma visione indica anche lo spettacolo allucinato che noi abbiamo in sogno, abbiamo in uno stato di alterazione della coscienza. Alcune forme di atti di vedere concentrate su oggetti particolari si possono chiamare gergalmente visionamento. La cosa vista, essa stessa non ha nome. L'oggetto che noi sottoponiamo a sguardo non ha nome. Se si tratta di un paesaggio si chiama veduta, o forse anche vista, coincidendo in questo col nome dell'organo o dell'attività dell'organo. Se non si riferisce a un paesaggio naturale non ha nome. Dobbiamo ricorrere a perifrasi del tipo di quel che stai vedendo, quel che stiamo vedendo. E se il verbo invece che vedere dovesse essere guardare, saremmo ancora in condizioni ancora peggiori. Di guardare noi abbiamo soltanto sguardo, guardata, oltre che naturalmente guardone, che però è abbastanza marginale rispetto a tutto questo, anche perché non coincide né con veggente, né con vedente, né con guardante. È una cosa molto curiosa, grande inerzia del vocabolario rispetto a tutte le entità che stanno attorno al campo del vedere, vuoto di vocabolario in una tematica sulla quale, come spero di convincervi fra un istante, insieme a me, avremmo invece bisogno di una terminologia particolarmente raffinata. Quali sono le proprietà del vedere dopo il cambiamento di ecologia ed etologia del vedere di cui ho parlato prima? Questa, diciamo, è la parte centrale del mio discorso ed è anche la parte con la quale mi avvio, sia pure a passi graduati, verso la conclusione. La prima proprietà è quella descritta da Hannah Arendt e da Hans Jonas, distanziamento. La vista colloca gli oggetti a distanza in uno spazio irraggiungibile e intangibile. Qui però c'è un passaggio, avrei dovuto fare un pallino separato. La irraggiungibilità e l'intangibilità si convertono nell'atteggiamento del vedente, del guardante, in indifferenza nei confronti della cosa che sta vedendo. Si possono vedere, secondo la previsione di Goethe Blumenberg, rivoluzioni, stragi e battaglie, massacri e cataclismi, senza esserne affetti. Questo è ciò che capita a Lucien nel primo capitolo del Rosso e il Nero, quando attraversa la battaglia di Waterloo senza mai riuscire a capire dov'è la battaglia. Lui vede ma non sa che sta in una battaglia, quindi è in mezzo a morti ammazzati, ma li vede come fenomeni marginali. Ma è ciò più banalmente che accade alle persone che si fermano a guardare un incidente stradale e che producono a loro volta incidenti stradali dovuti principalmente al fatto che stanno guardando dei fenomeni rispetto a cui sono indifferenti. Quindi qui il concetto fondamentale è distanziamento, la distanza di sicurezza di cui parlava Hannah Arendt, e un secondo pallino che avrei dovuto aggiungere e vi prego di aggiungere adesso mentalmente, indifferenza nei confronti di ciò che si sta osservando. Seconda proprietà fondamentale, ciò che con un termine della etologia chiamerei cut off. Cut off vuol dire taglio. In etologia il cut off è qualunque comportamento che serva per chiudere una relazione sociale, per esempio per chiudere una conversazione. Quando noi vogliamo far capire al nostro interlocutore che la conversazione è finita, nell'area di Roma e in una varietà di posti d'Italia si dice va bene. Va bene significa puoi pure andare, oppure io me ne sto andando. Oppure spostiamo lo sguardo da un'altra parte. Insomma, ci sono una varietà di tecniche per ottenere il cut-off. Qual è il significato del cut-off nel campo del vedere? L'occhio ha una peculiarità che lo apparenta all'obiettivo della macchina da presa. Pur avendo un angolo di ripresa enormemente più vasto di qualsivoglia obiettivo, l'occhio, per meglio dire la vista, può concentrare la visione su un oggetto o un evento ignorando ciò che è attorno o accanto. Cioè noi possiamo spostare lo sguardo di un grado ignorando che accanto abbiamo qualcuno che sta morendo. Il campo visivo nasce da un ritaglio di un'area rispetto alla visuale intera. Quindi in un certo senso l'effetto della macchina da presa che fuori del campo non lascia nulla, non lascia vedere nulla, e quindi noi possiamo avere idea che siamo alla corte di Napoleone, anche se qui accanto, fuori del campo, c'è un jukebox che la troupe usa per divertirsi negli intervalli, noi non vediamo nulla. Lo stesso effetto, deliberatamente, di cut-off, di taglia fuori, possiamo averlo con lo sguardo. Questo mi permette di sostenere che l'occhio, o per meglio dire la vista, qua non si tratta tanto dell'occhio ma della vista, è una funzione, al maschile viene meglio, l'occhio è un organo settore, alla stessa maniera che un anatomopatologo è un perito settore, cioè taglia ignorando tutto ciò che è fuori del taglio. Infine, più avventuroso, ma non meno interessante, il termine non è dei più espressivi, però non ne ho trovati di migliori, fascinazione. Per qualche motivo che non so se a chi spetti studiare, se agli psicologi cognitivi, ai filosofi o ai teologi morali, le cose che ci si presentano alla vista hanno un potere attrattivo che pochi altri oggetti percettivi presentano. Cioè il vedere ci attrae. Quando una cosa si segnala come cosa che possiamo guardare, questa cosa ci attrae. Questo non soltanto quando si tratti di una cosa eccezionale, per esempio un incidente, un tafferuglio, un evento che sporge dalla superficie della realtà e dice io sono qui, guardami, ma anche quando non c'è veramente nulla di speciale. Se voi osservate come gli utenti di telefonino guardano ansiosamente nel display del loro apparecchio, qualunque cosa questo contenga, avete l'impressione che lì c'è qualcosa che ci sta parlando. Naturalmente questo tema potrebbe essere articolato in maniera molto sottile e molto fine, io non lo faccio stasera, mi limito a indicare che la fascinazione della cosa da vedere è uno dei suoi caratteri più misteriosi, più perturbanti, ma al tempo stesso anche più innegabili. Quindi, proprietà del vedere, distanziamento con conseguente indifferenza, cut off, cioè taglio di tutto ciò che non vogliamo vedere e quindi lasciamo fuori del campo visivo o mettiamo al bordo del campo visivo, fascinazione. La modernità ci aggiunge del suo. La modernità è caratterizzata, perlomeno nei paesi cosiddetti avanzati, ma non solamente, in quelli, da una catena del vedere tecnologicamente costruita, quindi da una catena tecnologica del vedere completamente difforme da quella che potevano immaginare Platone, Aristotele e anche Hannah Arendt, che ai suoi tempi poteva come strumento di visione immaginare solo la macchina da presa e forse la telecamera. Alla fonte, la catena del vedere, c'è una webcam, un occhio elettronico, che punta su qualunque oggetto pensabile e che silenziosamente riprende e ritrasmette in qualche altro punto. Quindi, noi siamo in un contesto che io chiamerei, è un termine inventato, quindi discutibile, modificabile a piacimento, tecnovisione. Non vediamo più con gli occhi, ma vediamo con gli occhi, tra i quali è l'oggetto da vedere, c'è sempre qualche cosa, o per lo più qualche cosa di mezzo. Abbiamo quindi delle camere, strumenti per riprendere cose da vedere o cose viste, abbiamo dei display, strumenti su cui ciò che qualcun altro ci sta facendo vedere si presenta, abbiamo delle memorie, strumenti per conservare e riprodurre cose viste, da ultimo, l'ho scoperta qualche giorno fa, la cornice elettronica, non so se voi la conoscete, che ho trovato per la verità molto perturbante. Un sottoaspetto di questa catena è il ridursi a zero della necessità di conoscere procedimenti tecnici per ottenere questo. In parole povere, mentre fino a 15 anni fa per ottenere una fotografia da una pellicola bisognava andare da un tecnico, questa procedura ce l'aveva solo lui, a parte alcuni privati particolarmente appassionati, ora la mediazione del tecnico è quasi zero. Quindi io posso con una camera memorizzare, riprodurre, diffondere, elaborare senza chiedere l'aiuto di nessuno. Io credo che sia la tecnovisione. Questa catena noi possiamo chiamarla, come ho fatto nel libro intitolato Il mostro mite, dove ho sostenuto che questo è uno dei motivi per cui i paradigmi generali del conoscere sono cambiati, questa catena possiamo chiamarla, se vogliamo, camera ubiqua. Io credo che siamo tutti colpiti dal fatto che qualunque cosa accada nel mondo, dalle avventure del presidente con le escort, al cataclisma naturale in Thailandia, da qualche parte su un albero, su un'astronave, su un satellite, in mano a un passante, in mano a un bambino che era nei paraggi, in mano a un cieco che si dilettava nei dintorni a fare castelli di sabbia, c'è una telecamera che riprende. Quindi una grande varietà di eventi non sono oggi soltanto raccontati, ma sono anche visti. Questa situazione, cioè il costruirsi di un paradigma di tecnovisione, o se preferite di camera ubiqua, genera quello che io considererei un quadrilatero infernale, dove il termine infernale va inteso in senso teologico, cioè fonte reale di peccato, se uno credesse a queste cose. Da che cosa è costituito questo quadrilatero? Dal fatto che al vedere, attività normale di chiunque apra l'occhio, gli occhi e li poggi su qualunque evento del mondo esterno, si aggiunge e si potenzia a causa della camera ubiqua il far vedere, cioè l'esibire fenomeni ad altri, e con un passaggio ulteriore molto delicato, il costruire fenomeni soltanto perché vengano esibiti ad altri. praticamente è un raddoppio del reale, dove c'è la realtà di primo livello, le cose che accadono, e la realtà di secondo livello, le cose che vengono fatte accadere abusivamente, forzando, per poterle mostrare a qualcuno. Terzo passaggio, farsi vedere. Quindi, esibirsi. Quinto passaggio, quarto passaggio, vedersi. Ciascuno di questi passaggi mette in questione la natura di ciò che noi facciamo vedere. Secondo Jonas, nel vedere soggetto e oggetto rimangono immutati. L'oggetto non viene toccato, il soggetto non viene toccato. Ho cercato prima di argomentare che questo non è sostenibile e che nel paradigma del vedere nella modernità la distanza di sicurezza, come la chiamava Hannah Arendt, fra il soggetto vedente e l'oggetto visto è essenzialmente una distanza di indifferenza. Quindi noi possiamo vedere una persona, un chi, ma non sappiamo dire se quella è una persona o una cosa, se è un chi o un cosa. Il chi si trasforma in cosa, il vedere non lascia immutato il vedente e il visto. Abbiamo degli indizi. Gli indizi sono costituiti dal fatto che il vedere, passaggio secondo me non frequentemente osservato, è associato a due passioni, due tipiche passioni, intendendo il termine passione nel senso tradizionale dell'analisi delle passioni, così come si presentava in Spinoza o in Descartes, sono strettamente connesse col vedere. La vergogna e la vanità. La vergogna e la passione, cioè nel caso specifico la sofferenza provata da chi viene visto in condizioni e in positure in cui non vorrebbe essere visto, ed è anche la passione, cioè il patimento provato da chi è costretto a vedere cose a cui non vorrebbe assistere. Quindi è una passione doppia, tanto da parte di chi viene visto, quanto da parte di chi vede. Al tempo stesso la vanità, che è una passione di altro tipo, è il piacere, non il patimento, che prova chi fa vedere se stesso o fa vedere cose nelle quali il se stesso è comunque esaltato. Una varietà di analisi di cui adesso non sto a render conto perché ho esaurito quasi tutto il tempo che la vostra pazienza mi concede, ci permettono di dire, e adesso lo dico in maniera estremamente rapida e sommaria, che vergogna e vanità sono due passioni proporzionalmente, l'una in fortissimo declino, l'altra in fortissima crescita. C'è tra l'altro un breve saggio che a me sembra molto luminoso di Sigmund Bauman sul declino della vergogna e secondo lui il correlato declino della compassione, che quadra molto col ragionamento che sto facendo. Se l'esaltazione del vedere a distanza di sicurezza, cioè mediato da tecnovisione, è una delle vie per l'indifferenza, l'indifferenza è evidentemente il contrario della compassione. Su questo tema non posso insistere, vorrei fare il passaggio conclusivo, che è il passaggio penultimo, anche se qui me lo sciupa il fatto che il pallinato non è venuto a dovere. Vabbè, si svela tutto nello stesso momento. Il quadrilatero infernale che ho detto prima è il punto di partenza per la trasformazione di realtà in spettacolo. La peculiarità dello spettacolo è che non ci importa di sapere se ciò che stiamo vedendo sulla scena sia vero o falso. Oppure, se preferite formularla in un'altra maniera, siamo convinti e si diffonde la convinzione che ciò che è in realtà dura, l'incidente automobilistico grave, dinanzi al quale si fermano centinaia di persone soltanto a guardare, la realtà dura sia diventata essa stessa un effetto speciale. Questo è ciò, è la metafora sottostante a quel film, secondo me, filosoficamente straordinario che Truman Show, dove, come ricorderete, tutto è troppo vero, ci sono luci esagerate, ci sono saluti troppo affettuosi, ci sono salamelecchi esorbitanti, dopo due minuti o forse anche prima noi capiamo che qualcosa non va, perché le cose che stiamo vedendo, che sembrano sulle prime vere, si dichiarano dopo qualche secondo troppo vere, cioè c'è un eccesso di realtà che ce le rende sospette. Il troppo vero realizza quella condizione che da par suo Giorgio Manganelli chiamava la troppezza. Non è un concetto molto filosofico, però forse potrebbe diventarlo, perché è un eccesso di realtà che è uno dei segnali primari del fatto che ciò con cui abbiamo a che fare è in realtà tutto falso. Fine del discorso. Guy Debord, qua forse il pallinato funziona bene. Io so che Debord non è sempre molto amato. Io devo confessare, ho un atteggiamento duplice nei suoi confronti e considero la metà del suo Société du Spectacle come un libro straordinario. L'altra metà no, ma una metà sì. E la metà che considero straordinaria è quella in cui Debord insiste sul fatto che la modernità, la sua modernità era agli albori, era diciamo come Baudelaire nei confronti della prima modernità, anche se Debord non mi risulta che scrivesse in versi, aver capito alla fine degli anni 60 che la differenza fra realtà e finzione si sta attenuando fino a che le due cose coincidono. Lo sapeva e lo percepiva senza aver visto Il Grande Fratello, e per ritornare al nostro punto di partenza, Debord intravede una cosa che da un lato dà ragione, dall'altro lato dà duramente torto alla tradizione che ho illustrato nella prima fase di questo discorso. La vista è il senso più astratto, ma è anche il più mistificabile, perché corrisponde alla astrattezza generalizzata della società attuale. Passaggio ulteriore e finale. Tutta la vita delle società in cui regnano le moderne condizioni di produzione s'annuncia come un'immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era vissuto direttamente si è distanziato in una rappresentazione. Si è creato così, espressione sua, uno pseudo mondo a sé, che costituisce la concreta inversione della vita, l'autonomo movimento del non vivente. Comunque la pensiate, io trovo straordinarie queste percezioni, soprattutto le ultime, dove la vista viene svelata nella sua costitutiva natura di senso che rende estraneo ciò che noi stiamo vedendo, e soprattutto l'ultima riga dove si accenna al non vivente, quello che io prima ho chiamato il tutto falso, che comincia ormai a muoversi per proprio conto. È diventato come un golem, sfuggito a chi l'ha inventato, che gira per la città e noi riteniamo che sia vero. Grazie tante.